Monelle, racconti giovanili di Devana. Il test. Tu, tra l'aquila e la tartaruga, cosa preferiresti essere? Tini formulò la domanda a suo marito con la solita espressione da bambina che lui amava tanto. Lui si stava radendo davanti allo specchio della camera da letto. Era un'abitudine che conservava dai tempi dell'università, quella di farsi la barba la sera prima di dormire, per fare più in fretta di mattina e poter così stare 5 minuti in più sotto le coperte. Si voltò a guardare quella sua moglie bambina e pensò che non avrebbe mai finito di stupirlo e di intenerirlo. In tanti anni di matrimonio lei non era proprio cambiata, aveva conservato quella sua meravigliosa caratteristica di lasciar decidere a lui e di essere sempre contenta, qualunque decisione lui avesse preso. In più era così tenera e buffa, mai acida, mai annoiata. Cosa hai detto, cara? Chiedevo se preferiresti essere un'aquila o una tartaruga. Beh, sicuramente un'aquila, ma che razza di domanda è? Oh, nulla, è un test simpatico che ho trovato su una delle riviste femminili che mi porti a casa. Lui ricominciò a radersi, sorridendo per l'ingenuità di lei. Poi ripulì meticolosamente il rasoio, era un fanatico igienista, e si infilò sotto le lenzuola. La sua mania per l'igiene lo portava addirittura a non baciare quasi mai sua moglie sulle labbra. Quando lo faceva era assolutamente sicuro che lei si fosse appena fatta il colluttorio con il disinfettante orale. Sua moglie però, come sempre, era perfettamente d'accordo con lui. E se dovessi scegliere tra fare il corridore automobilistico e il bibliotecario? Ma che domande! Ti sembro tipo da biblioteca io? È naturale che farei il corridore automobilistico. Nella vita faceva il pubblicitario, viaggiava moltissimo, spesso non rientrava per cena. Era connaturato al suo lavoro, il fatto di essere sempre a disposizione del cliente. Sua moglie però non si era mai lamentata. Viveva la vita tipica di tutte le mogli degli uomini di successo, palestra, shopping, parrucchiere. Poi lui le portava parecchie riviste femminili sulle quali trovava tutto ciò che interessa a una donna. Che altro poteva desiderare? E tra morire male da vecchio o morire bene da giovane, cosa preferiresti? Oh, preferirei non morire. Dai, rispondi seriamente. Quella che mi hai dato non è tra le risposte previste. Uff, sicuramente preferirei morire bene da giovane. Sì, un colpo e via, senza soffrire. Non sono proprio il tipo da marcire in un letto. Cominciava a stancarsi di quel gioco, ma non riusciva ad essere duro con sua moglie, anche perché Tinny sembrava così indifesa. Lui si sentiva in dovere di proteggerla ed era sicuro che lei, da sola, non sarebbe stata neanche capace di usare la carta di credito. Infatti era sempre lui che passava a saldare i conti nei negozi a fine mese. Se ti costringessero a scegliere tra leggere un libro sul senso della vita e la biografia di un importante manager, cosa leggeresti? Oddio, Tinny! Sto cercando di finire questo articolo di giornale, tesoro. Pare che vogliano di nuovo aumentare i tassi di interesse sui prestiti fondiari. Eh sì, ma se dovessi scegliere tra le due letture che nominano qua, sospirò lei. Ma sicuramente la biografia, chissà che non impari qualcosa di utile su come far fruttare i quattrini. Il senso della vita. Ma se non c'è nessun senso. Se non quello di avere soldi, una casa e una moglie che ti ci aspetta la sera quando riesci a tornarci, concluse quasi tra sé e sé. È proprio una bambina, pensò, alle volte così ingenua che mi fa paura. Il suo orizzonte si esaurisce nelle cose futili. Meno male che ci sono io a provvedere ai suoi bisogni. Preferiresti vivere un giorno da leone o 100 anni da pecora? La risposta non arrivò subito perché lui era concentrato sui tassi di interesse. L'unica cosa che voleva quando arrivava a casa era lavarsi, infilarsi a letto e leggere il giornale. Tini non lo disturbava mai, non aveva esigenze e non faceva domande. Erano sposati da 10 anni e proprio non riusciva a spiegarsi perché quella sera fosse così insistente. Un giorno solo, ma da leone, esplose il marito. E ora mi lasci in pace? Sì, le domande sono finite, ora guardo il risultato. Ma si può sapere che roba è? Sì, un momento solo. Tini fece due conti e poi sorrise. È proprio come mi aspettavo, disse accingendosi a spiegare con la sua voce da bimba che sta recitando la poesia di Natale. Vedi, il test serve per scoprire se tieni alla vita oppure no. Ah sì? E qual è il risultato? Chiese il marito incuriosito. Qui dice, rispose lei seria, che non ti interessa tanto vivere. Perciò ti posso ammazzare senza rimorso, tanto adesso so che non mi serviresti rancore. Infilò la mano sotto il cuscino, prese un coltello da cucina, che chissà come si trovava là sotto, e lo spinse con forza nel molle ventre di suo marito. Fine.